adesso che le mie nuvole si muovono su un cielo più vero e limpido. Le nuvole si aprono e sento che qualche cosa verrà per me. L'emozione, la poesia di un abbraccio forte in me.